giuste allo strumento esterno, capito? Sono perfette. Ecco, ma non ti vede questa radio, ma cosa vuoi te che? Perché cosa c'è questa radio? È bellissima. Però anche questa è molto bella, questa come B+5, Saturn Echo, va bene. Non mi dire che non va bene. Ma la potenza c'è, qua sto andando con 10 watt, non di più. Rumoraccio. E che cosa? Ma da te però? Ah no, pensavo che lui, io non faccio pompa di galore. Pompa di bicicletta faccio. No, no, guarda che è vicino a me là. Il segnale è molto più basso, 10 watt sto andando, 10, 12 modulati. C'è poco zolla che c'è radio, c'è poco zolla. Così basso lì, anche se c'è l'antenna così, però è impossibile, troppo bassi sono i segnali, troppo bassi, è proprio sorda la radio, perché se sorso ti sente, tu lo devi sentire, e poi Franco, già esci poco volte, arriva 9:10 qua, figurati tu. Vabbè, eh? Cosa vuoi tu? Eccomi. Adesso vediamo, devo vedere il segnale se sta arrivando bene. Stavo dicendo, fra, ma la radio è buona la mia però. Sì, è un po' agoniati, dai, meglio anche. Un bel acuti sono, no? Sto usando, quindi l'importante è che la modulazione sia buona, no, non abbia problemi, capite? No, ma che ho fatto usando l'MB+5? Sì, collegato al Galaxy, ogni radio c'ha il suo microfono da tavolo, no, non mi piace a me usare il microfono da palmo, capite? Vediamo un po', Marco? Eia, eccomi qua, buonasera a tutti, io poi uscirò, farò commissioni, dai. Comunque sì, guarda che quelli così, no, non programmabili, canali fissi tipo l'MT5050 Intec, tipo il G9, questi sono quelli, e tu dici, certo, con 30 euro prendo un bau, però sai, se te lo porti fuori, non ci vogliono nemmeno pensare, almeno quello passa per PMR, capito com'è la storia, ciao Fra. Sì, ma infatti il discorso non vale una cosa, per te va benissimo così, no, stavo dicendo per me, cosa me ne frega, posso portarmi anche l'altro, non è quello il problema, però per fare solo quello lì è, mi sembra una spesa un po' troppo elevata, vabbè, KK, io beh, non c'è problema, beh. Già poi vediamo un pochino com'è la situazione. Ok, avanti Fra. No, Giuseppe mi deve telefonare perché mi deve far sapere se gli hanno collegato il cavo, ma siccome dovevano andare lunedì, stava piovendo, insomma questi giorni sono un po' brutti, penso che non ne abbiano collegato ancora, non lo so Fra, non mi ha chiamato. Per questi giorni non si può fare nulla, poi il problema è lui c'ha le tegole, hai capito? Avendo le tegole è un problema, è un problema, un grosso problema, perché se si rompono quelle tegole sono anche difficili da trovare, capito? E vabbè, mi farà sapere, dai. Avanti Marco. Ehi, aia, eccomi qua, c'è freddo un po', almeno io sono con pantaloni ancora estivi. Insomma, comincia a sentirsi, Infatti quando peggiorerà ancora la temperatura, qualche grado in meno, magari fuori stufa si comincia a apprezzare, dai. Comunque i prezzi sono quelli. Lo stesso le metti 50-50 sui 70-75. Pensa che quando appena è uscito l'MT-50-50 della Intec, io sono andato da Grassi a prenderlo, me l'hanno fatto pagare 88 euro l'uno e ne ho preso una coppia, 88 euro l'uno, prezzo proprio di listino pieno. Però sai, era appena uscito, lo volevo in anteprima, eccetera. Vabbè, quello lì praticamente te l'hai preso per portartelo in giro, per sicurezza. Va bene, no, io così no, non mi interessa, cosa non me ne faccio, tanto io me lo posso portare in giro il mio, quello amatoriale, quindi. No, se ne trovo uno magari che faccia solo quello, anche canalizzato, giusto per... Allora va bene, se no niente. Sì, c'è freddo, io ho il riscaldamento acceso, alle 5, attaccato, adesso sino alle 10, rimane in collegamento, se no ti canta la zamba e anche, c'è un'aria fredda, tempo brutto, vai fra. Già detto, in pare ho rinnovato il pacco batterie, all'MT-50-50 c'erano le batterie ormai esaurite, erano mi pare al 1400-1500, ce l'ho da anni, e ho messo le batterie di litio, quelle da 2400 mAh ricaricabili, c'è una bella differenza da 1500 a 2400, durano molto di più, lo stesso in questo c'erano le batterie da 1800, gliel'ho messa a 2004, nel 2008 le uso come scorta se sono fuori, che ne so, finisco le batterie, comunque è carino, dai, certo non mi porto il Baofeng fuori, no, come fa qualcuno, no, se me lo beccano il Baofeng guai, me lo fanno mangiare, oppure me lo mettono dietro. Basta far ragionare la testa, no, ti ha invitato al compleanno a te? Sì, mi ha invitato. Infatti dopo devo pigliare una cosetta, la portare e andare là, capito? Fra mezz'oretta a me, tanto devo fare pure benzina. E visto che tanto voglio andare, dai. Ah? Poi già ci sentiamo domani. Ehi, devo fare bene, sia che entra in radio, non va avanti a girarmi le palle. Stamattina da Nico l'ho trovata Giuseppe e mi ha detto Giuseppe, capito, che è il suo compagno, ha detto fare gli auguri. Ehi, devo portare qualcosa per non andare a mani vuote, se no sembra che vada a scrocco, capito? Dai, quanti sono? 50, me l'aveva detto, 58 può essere, o meno, no, 58 ce l'hai tu, pare 50, manco lui, pare che manco lui lo sa. 50, chi 50 anni va? Se a 50 anni ero così. no, tipo 54, una cosa del genere, adesso non mi ricordo. Non 50 è qualcosa nel senso me. Boh, non lo so. Non lo so. Non te l'ho mai chiesto. Va bene, va bene. Ok. Avanti, fra. Ti prendi qualche cosetta e te la porti. Portale una cassetta di birra, così è contento. Avanti, fra. Di chi è compleanno, Marco? Di Pomponio. Pomponio. No, birra, io già non bevo, ho detto cercate Coca-Cola, per me acqua, quello che sia, non mi fate bere che poi devo rientrare, e non voglio nemmeno fare troppo tardi, dai. Va bene, sì, Pomponio compie gli anni, dai. Ah, io non dico niente quando compio gli anni io, così non devo offrire a bere a nessuno. Io su Facebook non ci sono, assolutamente. Facebook per me è il male, capito? Solo WhatsApp a circolo chiuso. Per Facebook è troppo a spietalare i cavoli propri davanti a milioni di persone, non mi piace. Mi piace più la cosa a circuito chiuso. Un circolo chiuso di persone, dai, che hanno un solo interesse, un interesse comune, vedi, tipo quasi baracchina in questo caso. Vabbè, io sono sempre stato contrario a questi social network, non mi piacciono, non mi piace, assolutamente. C'è di chattare con uno, anche in altre chat è un conto, ma c'è chi mette le foto al mare, chi mette le foto al lavoro, chi mette le foto al bar, chi mette le foto al gabinetto, eccetera. Boh, qui pro, che non lo so a chi giova questo. Io molti parenti in Argentina, che diversamente mai non l'avrei neanche mai sentito e visto neanche un fotografia. Ma per quello sì, ma poi sai cos'è? C'è anche, per esempio, quello bello, come si chiama? Skype, per parlare, vocale, con la webcam, quello lì preferisco. Preferirei se avessi una persona lontana, come facevo con mio cugino, che lavorava un po' in Germania, un po' in Inghilterra, capito? Sì, anche quello, diciamoci, si complementa, non ripeti, grazie. Idem con le patate, anche io la stessa cosa, su Facebook no, non mi interessa, tirate a me, via, vieni bucciami quanto a me in ordine. Cosa stavo dicendo? Non mi interessa Facebook, è un mondo che non mi appartiene, è un mondo proprio che non mi appartiene. Ce l'ho ma non lo uso, nel senso che proprio non mi interessa, capito? Ha ragione Marco, è un social network troppo, ti metti troppo in evidenza, meglio niente. No, ma sai cos'è? Poi ti mandano roba in continuazione, video, messaggi, porcherie fanno girare perché l'ho viste. Una volta con un amico, anzi un farabutto, aveva messo un video ambiguo di una ragazza che a me sembrava troppo giovane. Infatti ho detto non aprire nemmeno, non aprire perché può essere un collegamento a un sito lonfio. Troppa spazzatura c'è su internet in genere, dai. No, già si controllano queste cose. Ultimamente l'altra cosa che ho fatto un video, si sentiva una musica sotto fondo. Beh, non me l'hanno fatto pubblicare perché si sentiva la musica, per il copyright, un po' YouTube è così, se metti musica, video musicali, pezzi di film, no, tendono a rimuoverli per via della violazione del diritto di copyright. Allora c'era il trucchetto, bisognava mettere il film speculare con l'immagine invertita, però i software adesso riconoscono anche i film invertiti, capito? Non so come si possa mettere un pezzo di video, cioè chi deve pagare, la SIAE, non l'ho mai capito. In teoria si paga i diritti d'autore. Se metti un pezzo di film, metti 10 secondi di un film, 30 secondi, diritti d'autore, ma chissà quanto ti fanno pagare poi. Non saprei. tu Claudio sei sparito da tutti i network, no? Quale Zeta, Facebook, tutto, no? Non compari più da nessuna parte. Assolutamente no. Se vai su QRZ, digiti il mio nome attivo, ti dà nome e cognome e basta. Come qualsiasi radioamatore, ma non ci sono più foto, il mio sito proprio personale, ho fatto rimuovere tutto, da tutte le parti. Meglio incognito, tanto. Non serve assolutamente a niente. Vai, vai, fra. Non so se Marco lo sa, boh. Ma tramite Zello? No, non mi ricordo. No, mi ricordo che è un sito di Sicilia. E se qualcuno era in zona che tu cliccavi, ti rispondevano. Ah, non lo so. Io sapevo che con Zello, no, che serve a parlare tipo baracchino con le persone, no? Cioè, premi il tasto e parli, no? Poi molli e quello ti risponde, no? Avevano interfacciato Zello con i PMR, con dei PMR anche tipo Parrot, no? Messi, o non so, tipo Oristano, cosa del genere. Se ne occupava Cosomi, mi pare, il radiatore, non mi viene la sigla. Sì, praticamente veniva ritrasmesso via etere e via etere ti rispondevano e veniva ritrasmesso, tu sentivi attraverso Zello, capito? E poi con Link, boh, no, però non mi piacciono queste cose che ritrasmettono chissà dove, chissà quando, non si sa mai poi interferenze con altre cose, boh. Per esempio a me il Parrot, anche se ci fosse, non è che me ne freghi più di tanto me avere il Parrot, tanto... Cioè, le potenze per parlare fino a Porrotore ci sono, quindi... Altro che Parrot. Altro che Parrot, eh. Ricordati la volta della telefonata a me. Che era Porrotore, guarda, guarda! Quando scala la Porrotore, c'è uno scandalo! E vabbè, ma c'avevi quello grande però. Già ti credo. 8008, me. Y8008. Ah, ce l'hai ancora quello lì? Sì, sì, io lo IES 8008 ce l'ho ancora. L'857 che ho venduto. E quello lì è uno e l'altro, fa tutte e due. V e U, solo FM. Solo FM e V e U, non capito. Ok, ma anche quello lì devi dare, o te lo tieni uno? Ma guarda, io stavo pensando di darlo, poi ho detto almeno uno però me lo dovrei tenere, almeno uno. Se no è carino l'8008, che poi io te l'ho detto, ufficialmente è un 8008, in realtà è un 8009, cioè in FM fai 29 MHz e 50, poi la V e la U, capito? Già aperto di frequenza, quindi fa tutto. È un bel apparecchietto, cioè si sente che non è cinese, capito, con tutti i difetti, quello difetti non ne ha, è scevro da difetti. L'ho preso da Media Globe per la modesta somma di, forse intorno ai 3,20, 3,30, più la modifica di 15 euro per l'apertura di banda. Vabbè, comunque sì, io lo chiamo 8008, ma è un 8009, quindi fa tutta la porzione di FM sia in 10 metri sia in 50 MHz, e poi VU. Sì, vabbè, no, poi come veicolare me l'hanno chiesto, io il mio ce l'ho, ma lo do, perché può capitare che vado fuori, metto la base magnetica e me lo metto in macchina, capito? Ascolta, e dandolo quanto, dimmelo là. Guarda, mi accontento del QSO. No, è brutto questo, è una persona grande, è bruttissima, se no te l'avrei fatto dare. Ehi, no, sa cos'è? Guarda, avrei preferito dare un baracchino, vendere quel baracchino a 100 euro, quello a fanzo col frequenzimetro, che dare l'8008, però preferirei tenerlo. Poi sai, a seconda di come mi gira, mi viene Raptus e dico vendo, quelle macchine fenomenali. Non sono molti fatte, cioè in V come Vittoria sono 50, in UHF sono 35. Non è nulla, anche il mio è così, anzi il mio ne ha, non ci arriva a 50, ne da, mi pare che io ho un capo di vecchio, mi banda, mi pare sia 35 in V e 25 in U, fate il conto. Ed è sempre ultimo per la macchina, sì, a questo le serve per la macchina, ma se glielo procuravo. E non ne hai altri, a parte questo, altri di altro tipo, più vecchio, stracobarato, non ne hai VU? No, veicolari no. Poi quello appunto al doppio ascolto reale, cioè puoi parlare in full duplex se VU, capito? Oppure a doppio ascolto su VV e UU, cioè stessa banda, ascolta lo stesso, però quando trasmetti in una silenzia l'altra. Invece in V e U è proprio full duplex. Te lo dico per informazione, poi casomai decida di darlo. Poi ha di serie il kit separazione frontalino, tutto ha. Già pronto a mettere l'unità nel cofano, il frontalino sul cruscotto, capito? È un bello come apparato, adesso ti mando la foto. Ti mando una foto fra poco. Dai, comincio a prepararmi, dai. Ti mando la foto WhatsApp, dai. Ehi, se decidi avvisami, capito? Se decidi avvisami, magari mi mandi anche il prezzo. Se decidi di venderlo, mandami anche il prezzo, così glielo dico. Va bene, va bene. Ok, no, il mio non lo do perché mi può servire. Non lo uso mai, ma capita che decido di uscire in macchina, andare fuori e me lo metto, anche se non è che mi interessi, ma comunque può sempre servire. Vai, fra. Allora, capito, l'unità nel cofano e invece frontalino la macchina tipo l'orario. Sì, beh, UHF di oggi, i veicolari sono tutti così, c'è un frontalino estraibile, non si usa più tutto il barrasone con la staffa, no. Anche il frontalino c'è il cavettino che si attacca, lungo, te lo danno minimo a 5, massimo a 5 metri, porti l'unità dopo da voi, sotto il sedile, dentro il cassettino, da tutte le parti c'è solo il frontalino visibile con il microfono, è una bella cosa, se no era un barrasone. Erano barragioni prima. Il mio ad esempio non è estraibile, c'è un Kenwood 702, non è estraibile di quelli vecchi, però ha sempre funzionato bene, me l'ho sempre tenuto, capito? Non so se c'è qualche baracchino col frontalino estraibile, non lo so, io no, baracchini ne ho tanti, ma sono tutti roba di vecchio stampo, fra, capito? Non ne ho di quelli così. No, vabbè, i VU e i luci, quelli ce l'ho avuti anch'io col frontalino estraibile. Anche da poco ne ho dato uno, però era un tribanda, non aveva le UHF. UHF 50 mega e VHF, e vabbè, però no, sono cose che non mi interessano perché non li uso più, quindi l'avevo dato. Adesso c'ho uno attaccato a un polpo che è un radioamatore che sta cercando un veicolare, capito? E quindi voleva il mio non glielo do. Se glielo trovo glielo prendo, uno se no si abbiglia in luci. Marco GTV ne ha più di me, abusivo è, però già ne ha. Vabbè, ma no, ce li ha, li tiene a casa, così lui le piace averle tutte queste cose. E vedi, adesso ha preso un tipo un omologato per fare le PDPMR, per portarselo in giro, perché l'altro che c'ha non è omologato, capito? Ci vuole la patente. Vabbè, bisogna stare attenti, però se uno fa funzionare la testa può fare tante cose. Se fa funzionare i piedi, allora voglio per lui. Mi aspetto che mi ha mandato la foto. Vista le foto? sì, l'ho vista, sì, lo conoscevo anche l'altro di nome, l'ho visto da qualche parte. Sì, quello lì l'ho avuto io. Quello dello Iesio, però era. Aveva display arancione, o quello lì si può colorare? No, no, ha un colore unico, ambra, è ambra, così come lo vedi in foto. Colore unico, però è riposante come colore, bello. Ricordati, effettivo 2009, io chiamo 2008, perché tanto era più conosciuto. Sì, poi il G9 Plus, carino, veramente carino. Arrivavo 9 da Squalo, non so se sia la Terolce, comunque 9. Santiago 9 Radio dice bella, bella, bellissima. Sì, dovrebbe essere di quella zona, dove quella zona lì, pare sia la fine della bretella, pure di fronte, non so, non lo conosco, io non so manco chi sia, come è fatto, e non mi interessa neanche. Avanti Fra, sì, fammi sapere, se decidi di darlo fammi sapere come, quando e perché, capito? Così lo accontentiamo questo amico radioamatore. Avanti Fra. Ma Marco, e tutti lì ce li ha mucchiati. Dove li conserva? Non ne ha più posto di quante radio c'è. Armadietto, così c'ho, dove c'è baracchini. Le altre cose le tengo meglio, però le tengo in modo migliore. Portatili dove capita, che ogni posto che apro esce un portatile, anche giocattoli, proprio giocattolini. Via. Va bene, no, baracchini ne ho fatto fuori, ne ho fatto fuori qualcuno. Uno venuto a Natalino, uno regalato a Natalino, uno regalato a Eugenio, uno regalato a Pomponio e poi non mi ricordo altro, dai. Sì. Quando non li uso ho detto a vendere non c'è mercato, perché non c'è mercato qua. Su PayPal mi rompo le scatole a mettere, a spedire, meglio regalarli. Sì, per lo spirito è più gratificante che non per la saccoccia. Dai signori, vi devo salutare, dai. E così esco e organizziamo tutto là, ok? Sentiamo domani. Se ci sentite ubriachi ululando al baracchino, non vi meravigliate. No, non farmi questo, va. È tutto spento, che è meglio. Se no poi quello mi torna ad attaccare. Allora la volta che invece di fare gli auguri vengo le spacco la testa. Ehi già, in fondo è buono, non è cattivo. Meglio lui, guarda, che molti altri. Ok. Va bene. Ciao Fra, ci sentiamo. Ciao Claudio, ci sentiamo, vedo che non c'è nessun altro oggi ancora. Questi apparecchi erano quando avevo il sogno di diventare radioattore, cioè non il sogno. Poi me ne è passata la gana, che è una cionfra anche lì, è una cionfra proprio. Ho lasciato perdere tutto. Futti, ma tu basta fare come ho fatto io me l'ho presa per la detenzione, non per l'uso, ma cosa me ne frega? Non mi interessa, io come te lo stesso avevo di tutto di più, e poi è chiaro che stavo andando incontro all'avversario, no? Già mai capito, e quindi me l'ho presa e basta, ma giusto per avere tutto quello che mi piace senza nessun problema. Poi lo vuoi usare, lo usi, non lo vuoi usare, non lo usi, guarda, te ne frega, tu devi pensare a te, non agli altri. A me, da me, io ho pensato a me degli altri, poco mi interessa quello che fanno gli altri. Chi è che ha salutato? Ciao Riccardo, ehi, bella rete, la modulazione. Sto andando col baracchino con un Galaxy Saturn Echo con MP5, non è il K. Ciao Riccardo, un abbraccio grande, grazie per essere entrato a salutarmi. Ciao Riccardo, un abbraccio, ciao. Capito Efra? Vedi, anche questo è una collega di Alghe, Eppure vedi, mi sentono, entrano, mi salutano, mi fa sempre piacere. Bisogna pensare a se stesso, intanto non lo pensi agli altri, cosa di una futti. Così è Marco, qui se te la devi prendere, prendita, e così dice, c'hai quello, c'è, sì, io ce l'ho, però lo posso avere, capito? Tu che sei pirata. No, ma prima o poi lo farò fuori, te l'ho detto, appena inviare il Raptus, Claudio, no, vendimelo. Dunque in macchina è una bella bestiolina, dai. Solo FM, giustamente, l'altra era quadribanda. Tutto, da 1,8 ai 56 MHz, tutti i modi di emissione. Più V e U, tutti i modi di emissione, MFM, PSK, tutto. Quello era veramente bello. Però giustamente, se non ne uso amatoriale, me l'attacco. Ciao a tutti, ciao. Non mi fate parlare male, ciao. Meglio per te, figlia Dia, mia Giunio. Andiamo assieme, ti accompagno io, almeno sei tranquillo e sereno, ma di quello non te ne facevi niente, o meglio così, sfuse, una di una dell'altra, una di quella, sì, tu quando decidi me lo dici, e io lo chiamo, capito, e glielo do, perché tanto se non glielo prendo io non se ne compra, perché non capisce un accidente. Va bene, ciao Marco, buon divertimento, buon tutto, fai gli auguri a Antonello, capito? E dai un bacio a Giovanna, e un pugno a capo all'altro che c'è, capito? Ciao! Non so mica se c'è anche Giovanna, eh! Ah, non c'è, vabbè, se non c'è pazienza. Comunque Giuseppe già l'ho visto stamattina, ci siamo salutati stamattina, adesso sono sceso giù da Nicco a prendermi una cosetta all'ora di pranzo, dai, questo mezzo giorno. Va bene, comunque fai degli auguri a Antonello, direi fai la bravo. Ci sentiamo allora, vai fra. Becker! E chi tu non intendi? Avanti! Ciao Franco e Marco, non so se c'è nessun altro, ma a metà di che ho ascoltato un paio di minuti, per cui ho sentito solo voi, a tutti, riprendi di nuovo qua. Ciao Giulio, buonasera. No, siamo pochi. Siamo pochi, non c'è nessuno. Ok, vabbè. Marco sta andando via, Marco? Ehi a Giulio, ciao, ben entrato, io sì, stavo andando, compriamo un po' di carne, non lo so, devo portare Pomponio via Londra a comprare un po' di carne, un po', insomma qualcosa per la festa, dai, io porto qualcosa lo stesso per non presentarmi a mani vuote, se non mi dicono che vado a scrocco, e quindi dai, sto andando già da adesso, perché lì mangiano alle 8, capito, lì si cena alle 8, per me è uno shock, perché io pranzo alle 8, quindi abituarmi sarà un problema. Va bene, vi saluto tutti, ci sentiamo domani. Ciao. Ok, ciao Marco. Buon divertimento allora, ci sentiamo. Avanti Franco, se mi ascolti. Mi ascolto al limite perché ho dei disturbi, elettrici e mi portate a presto. Ma voglio problemi anche con Claudio, stranamente, oggi va bene. Comunque ben entrato, Giulio, a te ancora. Ok Fra, io ti sento bene. Non ho nessun disturbo elettrico, per cui va benissimo così. Vabbè, dai, prima o poi anche tu rimedierai un'antenna un pochino più performante, per cui ci sarà sicuramente un'emissione radio superiore a questa di questo momento. Va bene, avanti qua. Gappa, stai usando sempre quel baracchino che abbiamo fatto la taratura. Bellissima radio adesso, veramente una bella radio. Prima fatica di schifo, era troppo compressa, adesso hai trovato proprio la via di mezzo, va benissimo. Il segnale non è variato per niente. Ok qua, io non so lì a passeggiare, a manovrare, eccetera. Sì, può capitare magari quando lo spolvero che si sposta un attimino quel potenziometro, eccetera, per cui, però di solito io non sono abituato a stare lì manovrando, toccando, facendo, non c'è motivo, se mi avete detto che va bene così, lo lascio così e basta, non, niente di particolare. poi ripeto, può capitare che magari spolverando, così non me ne accorgo nemmeno e si sposta un attimo il potenziometro di qualche funzione, per cui può anche capitare di uscire male, senza magari rendermene conto prima. Ok, va bene, lo riprendi, avanti Franco. Addirittura, ma la base magnetica però a casa, non sulla macchina, a casa fra. No, era in macchina, allora un po' prima di Olmedo, passata verso Olmedo, abbiamo fatto dei test, delle prove. Ok, buona sapersi, le prove si fanno per trovare appunto la posizione migliore sia del punto e sia anche riguardo all'antenna. Certo, va bene così, va bene fra, fate un filo, un vantaggio fattivo, cosa stai lì a tirare di lungo, è quasi invisibile si può dire, una cosa da niente così, 4 lire, niente di particolare, l'unico costo è la canna da pesca, ci metti questo filo e tu sei tranquillo, senza radiare, senza niente, e esce bene, io perlomeno. Tutti mi stanno dicendo questo che esco bene, per cui vuol dire che ho indovinato, che tra l'altro è anche in una posizione molto bassa, è 1 metro dal pavimento di casa, ce l'ho racchiusa fra 4 mura di terrazzo, se puoi immaginare, se la metto al posto dove c'avevo la montava turbo prima, che poi tra l'altro con l'antenna ce l'ho sempre, però se la metto lì, che sarebbe quella la posizione sua originale da sempre, allora esco anche molto meglio, però è sufficiente così e mi va bene, la lascio così. Riprendi qua. Non ho capito se è qua o fa. E comunque sicuramente ti ascolterei meglio anch'io, vedendo anche una tu. Sì, infatti sì, avevo rilanciato a Claudio, si vede che ha il telefono. O si è allontanato un attimino dalla radio. Sì, ma sai cos'era fra? Per il semplice motivo che intanto ho voluto fare questa prova, così, avevo questo rocchetto, ecco, chiamiamolo rocchetto, e ci ho avvolto questo cavo, ci ho avvolto, che poi era tutto smontato, che poi c'era anche il cavo, avevo anche quel cavo, però l'ho tutto riavvolto, perché era tutto smontato, no? E l'ho rimesso, e l'ho completato, perché ci mancava del filo, ci mancava, e l'ho montato, e le prove sono andate bene, e continuo così a lasciarlo, ce l'ho già un paio di mesi, anche oltre, e per cui non ne vedo la ragione, perché lo devo spostare, tanto più che ho parlato anche in DX, anche con le nazioni straniere, tipo Portogallo, Spagna, Germania, questi posti così, per cui va bene, lo lascio lì, non ci sono radiali, non soffia la notte quando soffia vento forte, e per cui va bene, non mi lamento fra. Guarda che il filo si può mettere anche esternamente via la canna, fissato addirittura con il naso rullante. Problemi non ce ne sono, non è detto che lo devi mettere per forza dentro la canna da pesca, no, il cavo. Lo puoi mettere anche esternamente, va ugualmente bene, problemi non ce ne sono. Si tratta solo di rispettare certe misure a riguardo del filo, e dunque va bene, leggerissima, cosa vuoi che pesi? Peserà se no 1 chilo, 1,5 chilo, cosa vuoi che pesi? 7 metri di filo, 7 metri di filo, più questa canna da pesca, cosa vuoi che pesa? Hai messo il filo da quanto? Da 2, da 1,5? No, io ci ho messo un filo da 2,5 e c'era un cavo quassiale, metà è cavo quassiale, l'altro è un cavo elettrico normalissimo, di quelli da 2,5 mm, per cui va bene così. Un piccolo condensatore, c'è un'impedenza, niente di più, ma un'impedenza da 70, 60 centimetri, mi sembra che 62, boh, adesso non ricordo bene, o 52 che fosse, è un pezzettino da 9 centimetri di come condensatore, e va bene, va più che bene, stazionare niente, interferenze niente, vedo di così, sarò stato fortunato, sarò quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, il fatto sta che è così, va bene. Non ho capito cosa sia la base, vabbè, non capisco che settore, per l'impedenza, forse non sono riuscito a capire bene. Sì, no, ne ho ricavato le misure dal computer. Per cui ho adottato quelle misure lì, se tu apri e scrivi sul computer, suppongo che tu ce l'abbia il computer, e tu scrivi costruzione antenna Game Master, ecco, tutto lì, e mi ha dato 1000 indicazioni, ci sono 1000 progetti, ne ho preso uno, l'ho fatto e va bene, fra, non ho niente di particolare, figurati. Mi hai detto costruzione antenna Game Master, si scrive Game Master, però si legge Game Master, capito? Cioè G-A, Game Master, G-A, si scrive G-A, vuol dire Game Master, capito? Costruzione, te le indicazioni che vuoi, ce ne sono progetti in aria, a voglia, quante ne vuoi ce ne sono, ne copi uno, sei tranquillo. No, su Facebook, no? Metti tu, scrivi sulla tastiera, scrivi quello, fai invio e ti appare tutta una schermata, pagine a non finire, tu te li leggi un po' tutte e poi scegli quella che ti piace. Comunque tu puoi scrivere così, Game Master costruzione, Game Master spiegazione, ecco, scrivi quella parola, aggiungici, spiegazione, costruzione, Game Master spiegazione, e tu sei a posto, e vai, vedrai che vai a colpo sicuro. Ok, ho scritto. Claudio, sei entrato? A Claudio gli è mancata la corrente elettrica. Claudio, ci sei? Si vede che da quelle parti è mancata la corrente elettrica. Capito, Ofra, com'è la questione? È leggerissima, la canna a pesca costa lì da coso, Decathlon, a Santa Maria, lì, con l'uso nuovo, eccetera. Vai lì, compri una canna da 7 metri, 16 euro, mi sembra che 16 euro, sì, 7 metri lunga. Per cui va bene, no, non ci sono problemi. Quello è importante, non ci deve essere metallo, no, assolutamente, l'unico metallo che ci può essere dal palo in giù, tutto lì, ma il resto no, il resto deve essere sempre roba non metallica. Perché il carbonio disturba, poi attrae anche i fulmini e tutto, no? Beh certo, quello sì, no, poi al limite c'è proprio, non se ci sono i tubi in fibra di vetro, quel vetro mi anifica 30-35 euro, addirittura 8 metri, anche 10 metri ci sono, li vendono, tu guarda online ce ne sono, quante ne vuoi, fatti un giretto lì al computer e trovi tutto quello che ti serve. Vediamo se rientra Claudio, ci sei? Claudio è andato a mangiarci la paglia. No, evidentemente è al telefono per lavoro. Ah vabbè, lui ormai il lavoro praticamente è finito, vabbè, è in ferie comunque. Ma non è detto che non lo disturbino continuamente, per chiedere come si procede. È così, infatti ce la stava facendo anche Natalino, se la sta costruendo. Io gli avevo dato tutte le indicazioni, lui ha aperto il computer, ha visto anche lui che non ci sono difficoltà nel costruirsela, e ce la sta facendo piano piano, solo che dovrà poi buttare giù quella che ha per mettere quell'altra. Franco, ripeti. Per quanto riguarda le stazionarie, 1-1 su tutta la gamma della 27, per cui problemi non ce ne sono. Semplicemente con un semplice rosmetro, vabbè, io ne ho 3 di rosmetri, ma per dire, lo quello, se avessi avuto io accidenti con lo strumento che serve appunto per la calibrazione delle antenne, sarebbe stata ancora meglio, ma siccome non ce l'ho, mi sono difeso ugualmente con un semplice rosmetro, e va bene lo stesso, Franco. al primo colpo, perché ho rispettato le misure, senza stare lì a perdere troppo tempo. Al primo colpo è andata bene. Scusate che c'è un jet, arrivo subito. Ok. Misuratore del campo è un altro discorso ancora, quello non ti segna le stazionali. Misuratore del campo è uno strumento che addirittura si utilizza a distanza massima di una lunghezza d'onda, cioè un massimo 11 metri, e non è collegato da nessuna parte, quello è un'altra storia. Misuratore del campo più che altro si utilizzava quando si piazzava l'antenna in macchina per trovare la posizione migliore, ma riguardo delle stazionali ci vuole il rosmetro, ci vuole, se no non va bene. O fra misuratore controlli il rendimento dell'antenna, se sta rendendo bene. Non l'ho seguito, lo ripete per cortesia. Dico, con l'antenna sta, diciamo, sta andando bene. La tua antenna, sì, sta andando bene, certo. Sì, giusto per un controllo, sono Topolino, mi conosci? Mi riconosci? Mi senti bene? Sì, Topolino, ti sento bene, la radio è un po' bassina, però il segnale è buono, si vede che sei in macchina perché il segnale in movimento, c'è un po' di QSL, avanti ancora Topolino. Sì, QSL, benissimo, molto bene, sto provando così un microfono nuovo, volevo vedere se funzionava perché mi stava dando dei problemi. Anche tu arrivi molto bene, ti ascolto, io sono in macchina qui in zona di Fredanieda, in che zona siete voi? Ah, vai Topolino di Alghero, vai. Niente, ma questo ho mangiato il formaggio. Se non dici il tuo nome attivo te ne mangio la testa, Giorgione. Certo, ma sei come quello lì, come Paoletto, è sempre con l'orecchia pelosa tu, Claudio. No, no, io sono qua su canale 10, hai capito? Sono qua su canale 10, mi sono allontanato perché c'avevo gente. Alessandro Giorgione. A me puoi dire che Topolino, non c'è problema. Ma Topolino, è un attivo che mi davano ogni tanto. Va bene, dai, no, l'importante è che funzionasse bene, che mi ascoltavate bene. Comunque Alessandro, in codice mio vecchio nativo Giorgione, perché sono bello grosso. Va bene, va bene. Mi ricordate i vostri nomi che non ho sentito, ancora a te. Sì, io sono Franco, ripeto, non è il massimo la radio, è un po'. Ok, riprendo io per salutare Giorgione, allora salutoni Giorgione, ben entrato, Giulio da questa parte, nonché Donna, lo riprendi? Sì, ok, perfetto Giulio, sì, con te avevo già chiacchierato qualche volta, molto bene, dai. Sì, ho fatto giusto una prova, è un po' bassa, lo so, perché se alzo il livello e poi mi fa dei rientri. Va bene, dai, vi lascio proseguire, vi ringrazio della veloce chiacchierata e niente, ci sentiamo presto. Una buona serata, buona cena a tutti e saluti da qua, da Giorgione. Ciao a tutti, ciao Claudio, Giulio e dai, metto il microfono a Claudio e poi ci sentiamo, vi ascolto, anche perché mi sto muovendo tra i ieri. Claudio, a te il microfono, ciao caro, a presto. Salutami anche a Riccardo, che sicuramente lì con te, che lo vedo seduto a fianco. Sì, c'è un rientro leggero, comunque c'è, appena appena, ma c'è il rientro, Sandro, capito? Va bene, lo sai, io sono, oramai sono CB, non sono più radioamatore, sono CB, quindi il mio canale di appartenenza è il canale 10, perciò sappi, io ci sono sempre, anche se non mi senti, ma ci sono sempre. Ciao, buon rientro ad Alghero, buon tutto, alle prossime, vai Franco. Sicuramente è con lui, perché poco fa quando mi ha salutato si sentiva lo stesso rumore, sì, sicuramente. Ciao a tutti di nuovo e buona serata. Ok, ha detto che non c'è Riccardo. Ok, sì, quello che è entrato poco fa fra era Riccardo, anche questo è un radio bidone. Va bene, va bene. va bene, ciao, adesso buon rientro, allora ci sentiamo alle prossime, vai Giulio. Ok, ciao Giorgio, allora fatti sentire quando è possibile, siamo qua la sera. Avanti Franco. Lo so, te ci conosciamo bene, Sandro, lo conosco da CB, poi si fa il passo e ci si abbandona un po', io sono sempre qua. No, ero... da casa mi stanno, adesso dimmi tu, devo venire uno alle 8 a vederla, ma dimmi tu. L'altro giorno è venuto uno alle 7, l'altro non è giunto alle 3, l'altro non è giunto alle 2, l'altro non possiamo fare domani mattina presto, allora che vuole? No, adesso io sono a Sassari e mi interessa vederla adesso, ma dimmi tu. Quindi, scoccia questo rompipalle, cosa vuoi? Che c'ho il cane, allora a 7:30, 8:15 io devo uscire col cane e rientrare quando questi sono già andati via, perché se uno sta sopra, l'altro giorno uno le ha morsicato tutte le scarpe. Lo so, ma madonna, me ne viene a lutto, cioè non siamo d'estate, ho capito, ben vengano, però ce la stanno giocando, siccome sono in tanti, perché la zona è molto, attira moltissimo. Quindi sono in tanti e questo di Studio Casa mi ha detto va, non perderlo perché questa è proprio, c'hanno quelli che vengono a me, c'hanno i soldi in mano, ho detto, vabbè, non è che mi interessi più di tanto, se la vedo la vendo, se non me la tengo, non è che sono come niente di fame, non me la fotti nulla, però oramai messalo in gioco e va bene così, dai, non c'è problema. Avanti, Marco giù. Ok, ciao qua. Ascolta, quello vuole venire alle 8 perché spera che tu lo inviti a cena, non hai capito, no? Com'è l'antipola. Te sei un po' fottiti, si vuole invitare a cena. No, che femmine, la dottoressa mi ha detto che non abita a Sassari, sta cercando, siccome l'hanno trasferita qua all'ospedale civile, io sono molto vicino all'ospedale civile, capito? Fai via Rockefeller, sei arrivato. E quindi sta cercando una casa qua, nella mia zona. E l'ha vista perché io ce ne ho tre di agenzie, figurati. Più io che mi arrangio per i fatti miei. Qualcuno mi ha telefonato anche a me personalmente, dove c'è il cartello fuori. Però c'hanno tutte le foto, tutte le cose, quindi l'hanno vista, adesso la vogliamo vedere dal vivo. Tutti vengono a orari mabbalordi, mamma mia, a me poi dopo pranzo, io quando pranzo sono già sdraiato nel divano, spengo il telefono, spengo tutto, non voglio rotture di scatole. Ma c'è già di due che me ne venne nere tre. Mamma mia, al giorno guarda le bestemmie. Adesso questo alle 8. E vabbè, che venga alle 8, pazienza, che venga alle 8. Vita dottoressa. Va bene, avanti Fra. Lo porto via perché poi, vabbè, sia quando è un ragazzo, un'altra volta era una coppia di giovani, finta di dire che era una persona grande, a giovani si attacchi all'archi e tricchette e tracchette, ma lo porto via. Filippo è canone, capito? Quindi non si sa mai che escano i dottorini poi, la rigogliatra, vai o Giulia. Capita, ci sarebbe da diventare milionario in quel caso lì, che Filippo riesce a generare dei dottorini, bobo, a posto siamo, sarebbe... Ma te immagini che nata di cosa, okay, se fosse successo una cosa del genere, c'erano diventati miliardari, ultramiliardari. Sì, avessi di quelle cose, vieni a nonno Ciccione, vieni, poi ce ne andiamo, vieni, è già infatti, cosa vuoi, la dottoressa mi fa la puntura, lei ci ha drizzato, ma tra di fatti la tua puntura. E vabbè dai, comunque, facciamo anche questo oggi, tanto problemi non ce ne sono, poi si vedrà, se sono rose fioriranno e se no già è pagata oramai, vai Fra. qua, mi stanno chiamando, mi devo allontanare. Se non ci risentiamo vi saluto adesso. Ciao Claudio, ciao Franco, grazie per la chiacchieratina, dai, mi stanno chiamando, devo scendere giù. Ok, ti riprendi pure qua. E oggi giovedì vai a pizza, ciao, se ce la fai entrare dopo, se no le prossime, vai fra. Anche la pizza? Giovedì Giulio organizza la bizzarda, capito? Mi pare che era giovedì, se non l'ha spostata come data. Va bene, ma deve essere arrivato qualcuno a casa, quindi io poco fa mi ha chiamato questo, mi ha trattenuto al telefono. Va bene. E così è fra. Beh, te l'ho detto, cioè abbiamo deciso di darla e ciccia. E ciccia, se no poi mi rimane in groppa ed è un casino. Una andava di casa, ma due sono truppi. Infatti prima mi sono dato la faccetta, prima riesce a concludere meglio, Sì, no, ma guarda, in questa zona sono molto cercate, perché è una zona molto tranquilla, molto, c'è molto, poi questa, dove abito c'è molto verde, sia da una parte, lato strada, c'è il giardino sotto, con tutti gli alberi, e posto auto, c'è tutto verde all'interno, alberi eccetera, per chi ha il cane lo può portare anche all'interno del condomino, non dicono niente, capito? Va bene, però io ho bisogno di uno spazio diverso e quindi la decisione è quella, già lo sai. Oh, ma guarda, anche io cambierei, se c'è qualcuno che interessa una casa adatta, io la prenderei in periferia, non lontano, però nelle vicinanze di Staffer. Te l'ho detto, 8 km la scala di Ciocca, a me è lì è me. Osci, dove c'è l'attività Mario, lì è, quello è il punto, no? Non si può tornare indietro, lì è boh. No, io non ho problemi, basta che sia indipendente. Sì, beh, quella è, stiamo facendo anche per Ilaria, no? Te l'avevo detto, perché con una bifamiliare riesci ad avere lei vicino, visto ne abbiamo una e la mamma rimane contenta. Così se se ne va e se ne va, e dove va? Boh. Vabbè, certo, dai. Ne abbiamo uno anche noi, quindi facciamo di tutto per tenere i vicini. Fra, c'è un'invasione, una malattia, Anna, è già sempre... Sempre che ogni tanto fa le domande alla figlia, però se non riusciamo a fare questa cosa, dare questa, mi viene molto male finire l'altra, capito? Mi viene molto molto male, perché poi alla fine cosa fai? Con quei pochi soldi cosa? Non riesci a realizzare quello che vorresti, invece avendo più liquidità riesci ad avere, a fare una cosa fatta bene, diciamo, eh. Sì, poi no, due case non si possono tenere. Io adesso insieme a Ghero perché non è accettato come pagamento, capito? Però come problema non ha più servizio, quindi costa poco durante l'anno. Vabbè, fra, ma lì ci vai durante il periodo estivo, quando ci vai, se no sei sempre in giro, burdu. E già va bene. Anche mamma c'era lì a Fertilia, e io già vado una volta all'anno, però lei grazie a Dio sta sicuramente meglio di me. Però così una qua che ci sono tantissime spese, fra, qua ci sono molte spese, il condominio è molto alto, in continuazione ci sono lavori, adesso fra un po' ci sono da fare le facciate e costano una barca di quattrini perché le strutture sono grandi. E quindi come fai? Cioè mantenere questa più l'altra non fa, quindi questa mio malgrado, perché mi piace moltissimo la zona, sono organizzato in tutto e per tutto, però devi farla fuori, in modo che hai la possibilità di fare e finire quella che ti interessa finire, insomma, capito? Poi lì il problema, puoi mettere l'antenna, puoi mettere quello che ti piace, no? Non ce n'è problema. Radio 5 è squillante. Sì. Vedremo come si sviluppano le cose. E infatti, tanto io non sto più viaggiando, quindi sono a casa e perciò mamma, no, perché il suo coso era stare sola in campagna. Ha detto, no, sì, in campagna, sì, a Ossi, cioè tutto abitato, non è che... Sì, ma sono più isolata di prima, e qui e là. E vabbè, ci avviso Guio, non ti preoccupare. Ci avviso Guio. No, non va bene questa radio, Fra. Non la uso poco, però ogni tanto la devo usare perché è una radio a 220 e quindi ha bisogno di essere usata. Poi nuova nuova, te l'ho detto. Cioè, uno vieni qua, la vedi. E poi questo microfono che funziona perfettamente. Ce l'ho neanche a metà. Perché è a manetta. Già va bene, già va bene. Sì, no, era il mio problema, è un disturbo che lui ha sotto, è già partito, è sotto la mia frente, quindi ha detto, una volta che è arrivato il rumore mi ha sotto con tanta attenzione. No, no, no, già va bene. La uso per città, e non è neanche bassa, mi c'ha. Questa è una bella bombetta, c'ha 25 watt, così a manetta al power, 25 watt c'è, non è che esce bassa, capito, 25 watt, va bene, tutto per fare due chiacchiere, però stare sempre col K, sennò... Anche queste radio, l'altro giorno stavo usando il DAC, però è molto bassa di potenza, bassa, non dà più di 4 watt perché c'ha le valvole esaurite completamente, mentre invece questa già pompa, dai, già si fa sentire. Perché aumenta la potenza, allora così sono 12 watt, 10 watt di portante bianca. Supera anche 25. Te l'ho detto. C'è un bel picchi di modulazione, se avessi avuto 25 watt di portata bianca sarebbe stato meglio. Invece ne ha 12, 12, 13, una cosa del genere. Perlomeno qua sta segnando così il wattmetro della Kenwood, della T230. È tutto collegato, tutto passa tramite lo strumento della Kenwood, tutte le radio. È una cosa che ho voluto fare per avere almeno la potenza e le stazionarie sotto controllo, però non lo uso come accordatore perché non serve a niente, non serve a niente nel senso che non ne ho, quindi non serve farlo passare tramite accordatore diretto, lo sto usando solo come commutatore d'antenna, rosmetro e wattmetro. Infatti le stazionarie sono a 1 rapporto a 1, manco si muove. Proprio poco fa mi ha sentito, stavo facendo la calibrazione al Galaxy per vedere se lo strumento del Galaxy corrisponde allo strumento esterno, ed è perfetto, uno c'è lì e uno c'è là, è perfetta sta radio, un gioiellino, e vabbè, avanti, riprendi. Va bene, più forte. Ah beh, che vuoi Bonier? Buona. Ah beh, non è che va a vedere. Aiuto, schiaccia, o il piede ti fa male. Ehi, dai, buonasera a tutti. Aspetta che passo un po' questo. Oh, questa non lo so, ma ti ho battisalato. Sì, la massa te ne varia. Come questa c'ha 12, 13 e poi quando fischi va molto più alto. C'è una radio, quella che sto usando adesso ho Fra, più un alimentatore da 50 ampere fa farla andare, è un baracchino, più una dei due. Io ho 11 ampere, non faccio battito per questo. Per quello di Massimiliano, ma anche lo Smith si accende. Quello è Massimiliano, un serpente, Air Cobra, quello è GTL, quello pompa. E beh Massimo, lavorato aiuti. Giuseppe ancora mi ha chiamato, non so niente. Sì, ho lavorato qua, tutto il giorno, non ha più avuto niente. E Fra, dai, io sto andando con mezzo vaso di portante bianca, il resto non lo so quanti sono, che non ne ho un rosso che ho attaccato. Aiuto, dai, aspetto questi baracchini. Yo! Luca del Monte. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. No, ponilo la potenza normale, a vedere. Normale, come media. Cosa ho fatto in mezzo? Un par di palle ho fatto in mezzo. Tu quando facci la potenza, la dice radio, va 80 watt, mi pare. Così mi senti. Allora, così è bassa la potenza. E così è bassa, ma non è un watt e mezzo. Vai tranquillo. In scala 50 usciva fuori dalla scala di 50 a me. Così al massimo, fra. Ciao Luca, buonasera a tutti comunque. Sì, ciao Luca. Luca mi ha calato il meter. Sì, buonasera a tutti, dai, via, sono arrivato ora. Sì, addirittura ti ho calato lo smitter, ma... No, ma sei... Sì, vabbè, siamo vicini, dai. Ma non è che non c'è Claudio, se no un casino. No, beh, se io ero via Pascoli eravamo ancora più di te perché ce l'ho attaccato proprio. Era via Pascoli, via Sicilia, cos'era? Dove ero io? Era un casino, sì. Ciao Lu, buonasera. No, ti dico solo, Massimiliano, che hai fatto da 9:15, no, con la potenza normale, a 9:30. Vabbè, da tu, c'ero doppio, metti di ghio. Cucchito Maracchino, no, non voglio guardare nel 4:40 perché sarebbe un casino. Allora ti dico una cosa, che normale così, con la potenza alta, arrivi come quando usi quello grande attaccato, quando usi quello con l'eco attaccato, immagina già di due. No, già va, va, già va. E la matta devi farà, già va. Avanti, fra. Luca invece al telefono. No, io qua con questo baracchino qua vado bene perché la potenza c'ha più di diciamo che c'ha 25 watt, la radio è buona, quindi mi piace usarlo. Il DAC non lo sto usando perché non ha più di 4 watt e sicuramente tu manco mi senti per il problema che hai. Gli altri mi sentono, però uscire così basso basso basso non mi fa, capito? Fra. Quindi ha lavorato, ma si vede niente. Io ho provato a fare quella telefonata, ma no, il telefono è sempre spento. Ha detto che appena facevano il lavoro mi chiamava, se non mi ha chiamato vuol dire non è fatto, Massimiliano. Ah, va bene, no, ok. Non era giusto per sapere, mi capisco. Va bene, va bene. L'eco bene va, lo posso aumentare un pochino? Ah, per me va benissimo, non c'è problema. Ah, sono qua, scusa, mi sono spostato a prendere un telefono, che lo devo controllare, sono qua, sono qua. Gappa, gappa. Ma guarda di chi da cosa metti là? Oh no, me lo sta facendo anche a Marco ieri. Lo sta facendo anche a Marco ieri. Ma quel capo dell'antenna? Ehi, è i radiali. Sono i radiali, bisogna che li riscenda da su, che li riscenda qua. Porca miseria là. Perché su non ci salgo mai, mentre invece quel cappetto ce l'ho qua. E chi è? Aspetta. Speriamo la mia, l'avrei chiamato, ma non siamo bloccati quei bulloncini che arrivano da viale. Allora, questa qua era un'antenna che era vicino a casa, lui è morto. E alla moglie gli ho detto, guarda che c'è un'antenna del baracchino, ma la posso prendere, allora, sta pulita. E c'è anche dei radiali, magari si usa come una seconda antenna, si spacca questa e si mette quella. Sicuramente sarà da tarare, boh. Si può fare, Luca, quella vuole pulita bene, qui è controllata. Sì, in effetti la si può fare, dai, l'ho pulita comunque, Massimiliano. Ho fatto la pulitina, il connettore del PL, ho cambiato i dadini sotto, che sono riuscito piano piano con CRC a levare i vecchi e ho messo quelli nuovi. Ma ho notato che dentro ci sono dei pezzettini, non vorrei che, speriamo di no, che sono i pezzi dei radiali vecchi, e se no la passa del drabbano. Pensa di sì, Adesso vediamo cosa posso fare. Però per fare una punta di trappa me li togli, se no glielo fai passante. E anche così posso fare. Come ha fatto Gianni che si è messo i radiali in coso, in, come si chiama? In alluminio. Abbiamo fatto il buco, un casino, mamma mia, travaglio. Ci abbiamo messo un po', però gli è ci siamo riusciti a sistemarla, dai. Sì, ma quando ce l'hai in terra così è meglio, capito, eh. Però se c'è il radiale Claudio va bene. Sì, vabbè, poi sicuramente saranno da da carteggiare, ma lì sopra gli butto un po' di trasparente, in modo tale quando tu vai a toccarla non ti sai com'è, no, la vetrolice è una maledetta. Lo so. Oppure li metti quattro in alluminio, costa di un euro l'uno, quella via di lì. Ah, ma non è un euro l'uno, è che preferisco quelli suoi, dai. Sistema così, poi un domani, c'è un po' di anni quella che mi aveva regalato Claudio, forse 5 anni, non lo so. Sì, già c'è di più. Più? Certo, io ce l'ho già, quando ce l'ho qua, ce l'ho già 8 anni, di più, li conoscevo già, quindi. Non lo so, ti direi una palla, vabbè, tu che la c'hai Franco? Sia con lo scala. Verso il monte, verso di te. Già arrivi forte a voi, poi anche una bella radio, va bene, vabbè, siamo vicini, ma anche Massimiliano arriva bene, sicuramente è al minimo, perché di solito arriva più forte. Ma io? Sì. Guarda così, così ho schiacciato il pulsante. Sembra più alto, prova, fai due passaggi. Allora, così, infatti dalla radio, così al massimo e così al minimo. Da 9,95 in più, da quasi 9,10. Sì, va bene, Guglia. Ma la arrivi bene, è perfetta. Non so se la testa ti mando bene, boh. 9,10. Poi con la radio, va bene, sì. Perfetta. Vabbè, dai, non tocchiamo niente, cioè non c'è niente da toccare, tanto vai su un tratto. Un tratto un po' giù duri, boh, ne manco. Mezz'ora. Casa oppure se movimento? Se fa a casa? Sì. Sì, però è puntata l'antenna verso il monte, quindi ferma tutta la parte posteriore, quindi non ho ricezione verso altre parti. Marcello, secondo dove ce l'hai puntata? Ho difficoltà a ascoltarti. Addirittura? No, è proprio sopra, verso questa parte non sento quasi nessuno. E allora ce l'hai in una posizione troppo bassa? Sì, è bassa, è a 3 metri da terra, Oh, io, dove vuoi andare allora? È collegata, come si chiama, al braccio del bocciolo, del tenditoio. Ma qua la volazione è fatta, c'è un problema. Purtroppo adesso sono queste le condizioni, finché non si apre il tetto su, perché ho il tetto a tegole, senza uscita, quindi bisogna aprire tutte le tegole là. Sì, una volta quattro basta, lo vedi, quattro tegole, e sei fuori. Sì, poi sopra il tetto di questa signora qua è un effetto che si ha tavrelle, quindi non è neanche calpestabile, ma è un camminamento con dei tavoloni, blu. Clappa. Io voglio entrare, forse c'era qualcuno sotto, un secondo mi allontano io, riprendilo. Vabbè, dai, comunque, vabbè, per me arrivi fortissimo, perché sei vicino. E magari la zona verso, sicuramente anche a Natalino gli arrivi bene, perché ce l'hai a due passi, dai, quindi linea d'aria sono due passi. Sì, Natalino mi arriva a 9,20, dai, segnale alto. E allora, ma sei da un po' che non entravi, fra. No, già entro ogni tanto, dai, anche stamattina avevo un caldo, no? Facciamo le prove della macchina, la paramobile, ho provato sia la faglia magnetica che l'antenna, io dietro la ruota di scorta nella macchina, e funziona meglio la magnetica. E io ho un'antenna, una PLC 1000, di quelle vecchie, però è vecchia nel senso di come c'era una volta, e manca solo il cavo, tutta pulita, ed era sempre di una persona là, era un bel sporca, e così può servire, boh. Io due, però sono le più piccole, la PLC della 800, io. No, c'è l'ho 800, aspetta, non la 1000, la 1000 è più lunga, la 800 è. Sì, io ho due, una nera e una color acciaio. È tutta nera. E allora è uguale la mia, la carica sotto, la Sigma, cos'è? Sì, la Sigma. Sì, Sigma. Allora, fate chi anda, la voi. Ma no, io poi so che, cioè, sto cercando una batteria qua, ma tu non la sentito il telefono? Poi, ecco qua. Praticamente di questo telefono, quando tu li apri, no? C'ha il gommino, c'è un gommino in plastica, piccolino, che purtroppo capita che lo apri e poi te ne esce, no? E non sa dove va a finire. Quel gommino serve, è del sensore di prossimità. Cioè, quando tu vai a chiamare, no? Te lo appoggi all'orecchio e quello si spegne, quando tu vai, te lo attacchi, si riaccende. Se non c'è quello, ti rimane spento. Ed è brutto usarlo così. Ma ora l'ho ritrovato. Piccolino nero. Ma se non ti accorto, un gommino così, 8 euro. Funziona così, ti arriva una chiamata, no? Il telefono ti rimane acceso, sai chi è, rispondi, allora tu rispondi, lo appoggi all'orecchio e lui si spegne, e beh, per risparmio energetico. Poi tu magari vuoi vedere se, che ti arriva qualche messaggio, te lo sposti dall'orecchio e ti accorgi che si riaccende lui, però se non c'è quel gomito ti rimane spento. Sicuramente se non c'è il gommino entra la luce e fa quel problema, fa quel difetto che ti rimane spento ed è brutto, mamma mia. Ma sì, il mio addirittura anche si fa con la mano vicino, sopra, perché c'ha qua 4 sensori di prossimità e lui si accende quando il fatto, cioè si accende le notifiche. Eia, vabbè. Ma mi dice Discam online, Samsung Daily, praticamente che è un virus. Che ti bucaccione non va dentro, invece c'è un virus. Mi si blocca, Occhio che non c'è roba invece per nulla, che tu puoi pagare a fare la cosa è peggiore la situazione. A volte ti scrivono c'è un virus, scarica questo, scarica quello, mai fare queste cose. No, io non mi voglio, io prendo il reset, vai a puttana sai. Vediamo se è assentato, caso lo stesso. Non è sentito. Tra un po' chiudo io, vado via. Scusate, io ho un po' di movimento stasera. Arrivata? No, sono sceso a spostare la macchina che l'avevo appoggiata nel parcheggio di uno, lo stesso qua del palazzo, adesso dovevo metterla su, allora sono sceso a toglierla. L'ho messa nel mio. Perché c'era un camion, siccome stavo facendo dei lavori, c'era un camion, capito? Pensavo che non rientrava perché lavora fuori, e invece mi sono dimenticato, domani venerdì, ho detto non lavora e quindi è rientrato oggi. Adesso sono sceso e ho tardato perché stavo facendo una chiacchierata e stavo facendo lavori qua, capito, un appartamento, quindi va sempre sul camion in mezzo ai beni e si mette proprio a fianco al mio posteggio, allora per non rompere le scarpe l'ho messa nel suo, ma non c'è problema. Si è messo la sua, io la mia l'ho messa nel... ma aveva un freddo pure, ciu. No, Fra, non ti video, guarda. Io apro gli occhi a quell'ora, A quell'ora apro sempre gli occhi, però non me ne beso. Finché la scala non mi riguarda la macchina. Ah, così è? Allora, già va bene. E chi è entrato, chi è uscito? Tutto a posto? Sì, le porte sono aperte a tutti, chi vuole, chi entra, chi esce, cazzo entra, cazzo esce lì. Ah, io non ti dai, cazzo entra, cazzo esce, Via. Ma te chi dove era? No, chi dove giorno si vendia così, c'ha fusaglia al mercato. Guardani, capo guardani, venga oggi. Ma gli ho detto, ma io dovevo si mettere mancati. Poi in dialetto capivo le collane, no? Infatti, poi come la tocca tu. Adesso stavo vendendo collane, anelli, insomma, bigiotteria. Va bene, che ore sono? Le 7, ma dimmi tu, adesso io mi avrei portato il cane, alle 7:30 sarei salito nuovamente a casa, mio pigiamone, arrivederci e buon viaggio. No, invece è già città. All'ultimo anche qua che portare questo detenuto, cosa vuoi? Mi francemi, a portare questo delinquente. E poi trattenermi al freddo, ma dimmi tu. Ma sono le 7 o le 8, Luca? No, le 7. Però ho sbagliato, io non ho cambiato la batteria. C'è per quel problema là, adesso appena vediamo, mi sa che qualcosa esca, se vuoi ti dica, io purtroppo adesso non posso fare niente, non posso fare nulla, appena a posto. Casino, mamma mia, cosa vuoi fare? Che cani, è un casino. Oh Filippo, la sera quando esce, mi adesso c'ha le orecchie calde calde e bullenti, perché c'è anche l'escalamento acceso. Quando esce al freddo, ne dora, tutto a mucco di radire, è un casino. Un casino, poverino, e come fai? Però uscire deve, l'inverno per i cani, poi questi cani che sono abituati a stare a casa, il mio dorme con la copertina, più di rimuovere che sulla gheggia. Cosa c'è? Bello, due di nonno, bello, ciccione, ciccione. E quindi, sicuramente ho appunto qualcosa, non lo so, ma l'avevi fatta vedere al veterinario, no? Claro, io vabbè, ma giusto per dare un'occhiata, che secondo me non è uno che te la controlla, dire ecco c'è questa cosa, questa è la patologia, comprare queste medicine, info oramari. Claro, adesso vuole pagato. Prima avevi fatto i vaccini, poi una volta che lavoravo, lo sai, poi porto anche da Monica a tosarla, a farla lavare. Dopo, non vinne, io già posso fare, ma mi picco. Ah no, non di certo. Quando ce n'è ce n'è, quando non ce n'è non è che ti puoi fare diversamente, capito? Così è. E va bene. Avanti Franco. Allora praticamente ne è uscita una cista nella pancia, duretta, una pallina, e l'altra nei capezzoli, cioè non nei capezzoli, nelle mammelle. Ti dica, troppo, un casino. Se mi avessero chiamato dove lavoravo prima, là qualcosa la potevo fare. Li avrei messi da parte in due volte, gliela avrei pagata e buonanotte. Io ci tengo, perché non è che non la tengo conto, però purtroppo quando c'erano queste cose i soldi ci vogliono, anche se un cane che non è di razza non c'entra niente, però se uno ci tiene. Ti faccio un esempio, il cane di mio cugino, lui ce l'ha tanti anni, c'ha 90 anni quel cane, eh? Praticamente gli è uscito un tumore nella bocca, cioè nella mandibola, è un tumore benigno, solo che questo tumore glielo levano e ricresce, lo levano, infatti non le vale più la candela, perché ogni volta lo operano ci vogliono 500 euro. So, io l'ho sempre tenuto a conto, però mi auguro non il voto. Adesso vediamo ora al nuovo anno cosa esce, se no. Niente, non posso fare niente, nulla, adesso come adesso niente, poi si vedrà. Diciamo di sì, dai, faccio quello che posso fare, e quello che non posso fare non lo faccio, poi quando non si lavora è quello, perché poi il discorso è che vai lì, mio ti fanno pagare 30 euro di visita, poi inizia, ci vuole questo, ci sono altri 30-40 euro, lo guido, pure magari ti dice direttamente, voglio operare, ci vuole tot. È un casino, no? Adesso lo vediamo, dai, riprendi qua. Via, mi ha chiamato Anna, vabbè. Questi cani, fino a quando stanno bene, quando non stanno bene è un casino. Quelli di 5 anni, è allucinante, vieni qua, adesso c'è Anna che sta in cucina, che sta facendo, hai tu devi venire dietro e ti sei messa a incasinarti la cucina, adesso io già vengo alle 8, vabbè ma sono i 7, ma infatti adesso sta pulendo, mettendo nuovamente in ordine. La cena devi preparare, tu hai trovato le balle, potevano venire domani mattina, no, che agire devi venire. Sono fatti la pulizia, facciamo tutti i giorni, c'è in ordine a casa, però dicevo la cena la devo preparare, anche io la metto a preparare la cena, ma la preparo adesso, poi pulisco tutto, capito? E la bondi la buona, e la devi mettere, nascondere dentro il forno, dentro qui, dentro là, perché la cucina deve essere, non ci devono essere sette gambe, non ci deve essere niente, è brutto, ma no, la casa già in ordine, già è tutto a posto. Tutte le mattine, tutte le mattine, aspirapolvere, l'isoform, aspirapolvere, l'isoform, tutti i giorni, quando c'è il cane a casa, è così, non c'è niente da fare. Alla grande, ciao Eugè, buonasera, ben ascoltato. Questa è quella radio che ti stavo dicendo, potenza da vendere, MB più 5 di tavola. Ah, devi fare, te la devi, cosa te ne fai? Tanto te ne pigli una come te i cristiani. E poi quella lì te la vendi. Che devi fare? Cosa te ne fai di chissà? Agarrai, a te la devi, mi scorta. Noise Blanker, Valerio di Alghero, capito oggi? Questa è la signora. Ciao! Allora, ciao, 15 watt di portante bianca, quasi 25 e 30 modulati, non hai bisogno manco di lineare. Ma Massimiliano che fine ha fatto, Ofra? Non so, io sono andato a aprire, poi spostare la macchina, insomma un po' di movimento. E beh, Valerio, ma nessuno si è visto lì ad Alghero? Mi ha detto infatti che mi chiamava quando lo facevano. Non mi ha chiamato, vuol dire che non sono andati lì, capito? Perché lunedì stava piovendo, dovevo andare lunedì pomeriggio. Martedì lo stesso, le tegole erano bagnate. Stamattina ha piovuto lo stesso, è un casino. Sarà molto difficile fare quel lavoro in questi giorni. A meno che non arrivi qualche perturbazione di sole. Allora sicuramente si potrà fare qualcosa, diversamente bisogna aspettare. Era da fare prima, ok. C'è Franco che non senti, Luca avanti, poi vai per Eugenio. Ciao Eugenio, ciao Valerio, buonasera. Dai, io adesso mi assento un attimo, volevo andare a portare una cosa, dai, arrivo subito. E se non ci sentiamo, ritenetevi salutati, ciao. Ciao Lucarie, dai, ci aggiorniamo allora. Non mi quel cavetto, ce l'ho già qua. E l'altro devo salire su e portarmeli giù, se non li vedo non mi ricordo, così mi metto in macchina. Ci vediamo da lì e ti dirò, capito? Ok, avanti Eugenio. Hai sentito cosa ti ha detto Eugenio? Se sei a casa o in macchina, a casa è. Lui è quando è a casa è come che sia in macchina. Basta che faccia il rumore della macchina, è lo stesso problema. Anche qua non si dà il segnale perché c'è i picchi di modulazione non ben alti. E già va bene così, già va bene, ok. Avanti Franco, tanto a Valerio, non intendi, manco ballante camera. Sassari, sia per te Eugenio, a Luca già ti sente, sia a te Valerio, ehi Afra, ci sentiamo allora, se coincide più tardi, se no a domani, dai, perché io ho questa visita alle 8, quindi sicuramente mi assenterò anche io, va bene, adesso tra un po' verso le 7:30 porto il cane, così me ne esco un pochino e ciccia, dai. Va bene, avanti Valerio, riprendi tu e fai girare. L'hai sentito Eugenio o no? Perché Eugenio non vuole capire che ci vuole un baracchino serio per parlare. No, un baracchino come quello che c'ha lui. Che cosa vuoi ti dica? Hai preso tanti denaro, non ti sei mai preso un vaso per casa, anziché comprare baracchini. Vabbè. E cosa vuoi farti, Ovalè? Se non esci, non esci. Poi mi dici se mi ascolti bene come l'altra volta lì ad Alghero, ecco il Galaxy e l'MB più 5. Avanti, Eugenio. A vedere due cose, chi se lo piglia e se lo guarda dall'armadio, non lo vedi? E ne hai sempre uno. Ma chi te lo compra? Chi te lo compra un baracchino così? Già non c'è mercato del radio a livello superiore, baracchini, cosa... Chi te lo compra un baracchino? Ma non è più nessuno, cosa... Questo è in vendita perché è una signora radio, chi ce la se la tiene, questa è molto molto stretta, poi questo è il modello, quello da 25 watt in AM e 50 in SSB, capito? Quindi non hai bisogno di lineare, non hai bisogno di niente, perché la potenza ce l'hai, e la sfrutti tutta, perché la sfrutti tutta. E più c'è l'MB più 5 che c'è il microfono a tavolo, senza nessun problema, capito? Tutto lì. Vai Valè, vai Valè, dimmi come ti sto arrivando ad Alghero con questo barragione, che te poca mano c'ha radio. Hai visto? Va bene allora, va bene. No, ce l'ho a metà l'MB più 5, ce l'ho a 5, a metà, va. Fa da 1 a 10 a metà a 5 ce l'ho, senza i toni però, Va bene, va bene. Perché con i toni smorta troppo, a me piacciono più gli acuti, capito? E infatti sono, guarda, in scala a 20 sono quasi a fondo scala del 20, quando parlo c'è fuori scala, quindi lo tengo in scala 200, e quando fischio sarei a 40 watt, va bene, va bene. Gai Este Valè, prova o Eugenio, prova a vedere, dai la voce, se lo vuole qualche camionista, la fallo vola Barone, ma tanto io ho girato i bibiritri. Dai la voce, tu che sei a contatto con i camionisti, e quello è un bel baracchino per, anche per il camion. E vedi un po', e poi ti prendi una base a 220 senza nulla, radio e microfono e boh, il resto è noia. Ma gli attacchi sono diversi, cosa c'hai? Tu non avevi più 4, più 5. E come mai questo pompa più del tuo? Questo è modificato, buone rapparti Ghisciu, buone rapparti, questo è modificato il microfono, c'ha la capsula diversa e spinge molto di più, questo me l'ha dato Gigi a me, capito? Questa era di Gigi Vulcano, spinge un bel, con questa radio c'hai già tutto pronto, non devi fare nessuna modifica, poi quello è al contrario di questo, capito mi hai? Solamente che non sembra che stai usando un microfono normale, perché stai usando, sembra che stai usando un microfono normale, non sento nessuna preamplificazione, capito? Questo è compresa la radio con l'MB più 5 da giudito, quindi Ghisciu, tene biro, non tocchese. E venditelo. Ho detto chiedi lì ai camionisti al porto, tu che sei in contatto, vendito e poi te lo prendi questo, capito? Te l'ho detto che non è il mio. E vendita anche questo, però funziona molto molto bene, è nuovo, proprio lucido, frequenzimetro bello stabile, non lampeggia chi come te ne ha giubito assai, un bel. Questo è bello stabile, canale 10, 27.035, tutto illuminato in originale ed è perfetto, ho fatto la prova poco fa, Ovalè, stavo guardando la T230 alle stazionarie, no? Proprio per vedere, per fare la comparazione, con lo strumento della Kenwood, quindi lo strumento della Kenwood mi dà 1, rapporto a 1, lo strumento della radio 1, rapporto a 1. C'è tutto qua mio Eugenio, tutto quello che ti serve, tutto, prosmetro, wattmetro, tutto, adesso sto segnando, vedi, 12 watt, 13 watt di portante bianca, sulla T, vediamo qua, 13 watt e mezzo, poi quando parlo va intorno ai 15, 16, 17, è giusto, è perfetto Valerio, c'è un barragione, c'è poco in mano. Ma quando c'è l'MB più 5, guarda questo, ma non è, non spinge, ma non è tanto il microfono che non spinge, è proprio la radio che è un seme digitale di quei baracchini, che era il mio quello, l'ha volata Massimiliano a lui, funziona bene ma non ha nessuna spinta rispetto a quelli così, capito? No, questo è un, io ho sempre vantato il miglior baracchino, io parlo di baracchini, qualcuno parla di apparato. Apparato si chiama un HF, l'ho sempre detto, radio si chiama un HF, questi sono baracchini, ci sono i baracchini veicolari e i baracchini base. Dei baracchini base per me il numero uno in assoluto è il Galaxy Saturn Echo, non ce n'è per nessuno, per come è fatto, per come è completo di tutto, per tutte le funzioni che ha, è molto visibile come smitter, come strumenti, come frequenzimetro, come tutto, tutto. Per me il numero uno in assoluto dei baracchini base è il Galaxy Saturn Echo. Poi gli altri sono belli ma vengono in secondo ordine. E allora, completo, e poi c'è la colonia davanti, si sente uno spettacolo. C'ha tutto, poi c'ha 6 bande, cioè una radio completa, AM, FM, LSB, USB, tutto, ma c'ha tutto, capito? C'ha tutto, microfono esterno, c'ha l'eco, lo puoi disinserire e fare, c'ha i 100, lo spostamento dei megahertz, c'ha il tono per il ricevitore, quindi se uno è cupo riesce a portargli gli acuti anche in ricezione, c'ha il rosmetro incorporato con la calibrazione, c'ha due bei strumenti, anche lo smitter, e io a volte quando non voglio usare gli occhiali uso questa perché vedo tutto, col 440 non ci vedono accidenti, capito? Va bene, e oggi dai la voce, vedi un po', dai la voce di giù, dove sei tu, e se vedi quello me lo fai sapere, per darlo un altro lo do a te, ti ripeto, ed è completo di microfono, devi stare lì a cambiare niente. Prova, quello è un bel baracchino per la barra, capito, anche perché è completo, c'ha canali sotto e sopra, insomma un baracchino completo, però è sempre un baracchino veicolare, chi ti attacchi la brisa, la corrente, oggi, e ti dimentichi, veramente, ti dimentichi, ma guarda che io, a me piacciono le cose belle, questa è veramente una bella radio, nuova, ma soprattutto funzionante, non ha un difetto, capito, funzionante, originale, perfetta. No, il prezzo è anche interessante perché li danno anche di più, però questo ho detto di darla così e così la do io, me la fatti nuda, non roba mia, lo mio è dentro l'armadio. Ascolta, ma il microfono ce l'hai a manetta? Tu immagina, ti vale che c'è il microfono a 10, cioè davvero mio G, sembra che stai usando un microfono normale, proprio è il baracchino che non spinge, perché quello c'ha, Mickey Game mi sembra che non ne abbia o qualcosa del genere, un tastino alto, basso, non l'ho mai compresa questa radio Uranus, non mi è mai piaciuta la verità, io l'avevo comprata in blocco da un CB che era morto, capito, me l'aveva fatta avere Luca del Monte, avevo preso tutto quello che aveva. Però non mi è mai piaciuto, è la verità, è una radio un po' uscita. E vabbè. Avanti, vale, altri 5 minuti, io poi vi lascio che mi preparo e vado a portare il cane, ok? Vai, vale. Guarda, io ne ho uno sotto mano di Excalibur, però la versione da 100 watt è regolabile, ma è una bomba, è uguale al Galaxy Saturn Echo, le manca il frequenzimetro, però io ho sotto mano sempre di uno che la sto vendendo, che infatti me lo volevo prendere io proprio come baracchino e usare quello anziché usare il K, perché almeno me li riservo un po', li tengo accesi, ma usare il baracchino è praticamente quello, la versione da 100 watt, proprio 100 watt pieni, 100 watt regolabile da 0 a 100, come questo, dove c'è l'RF power qua, no? Che va da 0, mi pare che questo faccia da 5 watt a 25 watt in AM, mentre invece ne ha quasi 50 in banda laterale, ok? Questa è questa versione, mentre le scale l'ho fatto da 0 a 100 watt AM, FM SSB, una canonata, solo che non ha il frequenzimetro, capito? E quando sei in altre bande il frequenzimetro è molto importante, fino a quando hai 40 canali normali, vai fino al canale 40 e ciccia, ma poi quando ti sposti è meglio avere il frequenzimetro, perché ti segna la frequenza in cui stai andando, capito? Tu mi dirai 140 e ti do io la differenza a te, me ne va, e ti prendi questo. Ah, visto, che mi hanno fatto la proposta a me un giorno, ti do un baracchino Colt modificato, valore 400 euro, mi dai 430, ma a me dai 100, mi gioco io l'altro, perché? Oh no, a te, vai e corri, vai, a te dopo una KF e poi un baracchino Colt, ma non ti avvii e ti fai un brodo. Calla a me. Ehi. Ciao Franco di Giorgio, non lo conosco da nessuno io. Raggio 30 da maggio, baracchini. Mi buono ancora a fare baracchini. Oh, lascia perdere. I miei gioiellini non ce li ho. 30, 40 sono più che sufficienti. Poi, voglio usare il baracchino, Non so cosa attende lo baracchino. Esce bene, ti sentono bene tutti. E si rabbiglia il culo. Vai, Fra. Sì, che forse ero io. Ah, mi sembrava la voce di Franco. Invece è possibile perché siamo usciti stamattina e mi ha detto che entrava alle 2 a lavorare. Infatti ho sbagliato. Ciao Natali, buonasera. Buonasera. Ehi, amici, Eugenio e Valerio Larghero. E io devo staccare perché sono in mezza, devo portare il cane. Dai. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ok, vai, Cla. Io ne sto appena salendo a portarlo. Cane, va, ci sentiamo. Ehi, perché poi alle 8 c'ho gente, capito? Deve venire gente a fare la cazzo. E quindi adesso vado a portare il cane e qui siamo a posto, vai. A dopo, vai Ugi. Ciao Ugi. Ciao Valerione, se mi ascolti. Io sto andando, ci sentiamo dopo, Antali. Ciao.